Cicco 10? No, la 10. Chi è che bussa? Ehi, aspetta che non vedo il segnale. Vieni avanti? No, dovrebbe essere. Così, prova. Ciao Franco, e allora? Poi Gianni, come va? Insomma. Potrebbe andare meglio, come si suol dire, però vabbè, è inutile lamentarsi troppo, se no guai. E via. Sai che un po' che non ti sentivo, dai. Sempre bello pimpante però, la voce sempre bella squillante. Un po' di positività ci vuole. Stamattina ero stato sotto casa tua, dai, dalla parte ferroviaria. Ah? Bene, bene, dai. Guarda, è capitato esattamente... vabbè, io ho riacceso tutto qualche settimana fa perché dopo tanto mi sono deciso a sistemare l'antenna e adesso non mi ricordo con chi stessi modulando e mi è venuto in mente il tuo nome e dai, adesso siamo da tanto che non lo sentiamo, dai, mi esci da Pizzu. Ecco, come si dice, funzionato e uscito. Ho visto era un po' mal ridotta l'antenna, sempre il solito problema, no? la parte terminale si piega. Vabbè, insomma, il tondino, insomma, quello che il radiale di punta, insomma, la qualità è abbastanza molto discutibile. Adesso ho rimesso l'originale, gli ho dato una... piano piano l'ho riaddrizzato perché era veramente sembrava un amo da pesca. Adesso va, sta tenendo, poi niente, boh. Finché dura la lascio così, dai. Vabbè, anche a me l'altra volta mi ha piegato la staffa, quindi era tutta piegata verso un lato, intanto me la incastro sotto la grondaia, ma tra un po' a furia di tropinare sulla grondaia vedrai che si spetterà la punta, boh. Perché la canna cos'è, più bello il vetro, però il vento una volta la sbatte al ferro che c'è su, quello per tendere del piano superiore, però come dici tu ancora sta andando. Ok, quindi sei ancora in quelle condizioni, non hai apportato modifiche? No, sempre puntellato così. Aspetta che poco a poco ho cambiato il... come si dice? La specie di tavaglietta che ho sotto la strumentazione, tra il tavolo e gli strumenti, l'ho cambiata che c'era un po' di polvere e quindi adesso sto di nuovo sistemando... sono cambiate le accordature, capito? Quando tocchi i cavi cambia sempre tutto. Vabbè, soprattutto se c'hai molti apparati e congegni elettronici o strumenti agganciati. Adesso basta ducarli un attimino, vabbè, ma tu sei sempre con la stessa attrezzatura? Mi sembra che prima uscivo con Galaxy, questo è il Samurai. Forse è sempre uguale, sempre il Samurai usavo in casa. Perché l'altro giorno con degli amici lo stavamo allineando questo. Anzi, mi dai, tu c'hai anche FM, c'hai? Affermativo. Perché, allora, le frequenze, quando appena acceso sono centrate, dopo un po', ma di un chilo si spostano, cioè tipo da 7,5 passa a 7,6, invece in Lima Sierra Bravo mi passa da 7,6, da 7,5, no, il contrario, in AM se ne scende di un kHz, in banda laterale sale di un kHz, ma poca roba, non dovrebbe dare problemi. Sicuramente quando fai le prove l'apparecchio è aperto senza il tappo, capito? Quando poi metti il coperchio le temperature salgono leggermente. Purtroppo sono apparati vecchi che subiscono un po' di queste oscillazioni dalla temperatura. Beh, certo, dai. Poi i componenti hanno la loro età, quindi la stabilità non è più come prima, come quella all'origine. Vabbè, dai, anche questo qua che è nuovo, non... praticamente a detta di Marco, ma l'ho notato anche io, in FM per ascoltare bene, soprattutto quelli che hanno apparati magari qualitativamente molto più performanti, devo eseguire la sintonia fine, dai. Devo fare la calibrazione fine per poterli ascoltare bene, questo è in FM, però poi il resto funziona tutto abbastanza bene. ho chiesto in FM, penso, sono ancora sul 75 perché l'ho acceso da poco. Proviamo ad andare in FM? Eia, almeno. Questo me l'ha ribadito anche Marco, la nuova, evidentemente quando escono dalla casa fanno praticamente una caratura approssimativa, dai. Ripeto, quando sono vecchi non sono più stabili, dicono che sono meglio quelli di oggi, hanno meno oscillazioni dalle temperature, gli apparecchi più moderni. Vabbè, ma io sono zitinimo, non devo comprare la baracchina, va. Oh, adesso mi ho dato anche l'altro, il Galaxy, vediamo un po' cosa ne toglie da quello, perché anche quello era un po' spostato, sia in FM, e poi addirittura dal calore della macchina, il vetrino colorato, delle luci arancioni, è diventato tutto una macchina di leopardo, adesso in macchina ha raggiunto temperature allucinanti, boh. Oh, yeah. Va bene, c'è la Luca, avanti. Sì, attendo. Ho acceso adesso e ho sentito bussare Franco e niente, e siamo qua. Luca, ancora sei libero? Sì, ormai entri più tardi. Ah, sono qua, adesso l'ho acceso perché c'è la lanterna staccata, perché quando c'è il temporale lo stacco l'antenna sia dalla TV che del baracchino. Io già non ne ho problemi, tanto già rimane più bassa del tetto. Se mi becca le fulmine devo essere proprio spiegato. Eia. Kappa. Non ve ne gana, no, già, ormai. Vabbè, ma stai lavorando sempre, sì, quel lavoro che mi hai detto. Per forza. Quindi ancora, c'hai un po' di tempo ancora, dai. E che mi regge la schiena, la salute. Pesante? Le casse sono pesanti, perché? Vabbè, non sono leggere, ma... Capito. Guarda che se me ne farà. Dico, non sono leggere, ma non sono manco pesanti. Sono la via di mezzo. E il... Aspetta che mi è caduta roba, non so che cosa, carica batterie. Il problema sai cos'è? Che passate a quell'ora ogni mattina è pesanti, eh. Oh, l'altro giorno ho fatto la notte, ho lavorato prima la mattina, ho fatto 3 ore la mattina, poi 3 ore per maturare le 6:30 prima della mezzanotte, quindi ho fatto dalle 9 fino a mezzanotte, poi dalla mezzanotte, sempre continuando e non spezzato, ho fatto praticamente dalle 9 di sera fino alle 5 del mattino. rientrando oggi mai mi butti, cioè mi sono addormentato appena appena in macchina, meno male, qualche santo mi ha salvato. Ho sentito le ruote già fuori, questo che è stato, sono rientrato in carreggiata, però ho rischiato, Lo so. È un casino. Durante la notte è un casino. Vabbè. C'ho questa adesso, poi se ne trovo di meglio. Ma, cosa dici? Piano piano, in cammino da Contalupari, cioè camminando il carico si sistema. Se trovi di meglio, tanto di guadagnato. Avanti Gianni. Ehi. Oia. Va bene raga, io mi devo spostare perché devo finire della roba che è iniziato qua. Cose di casa, sono entrato così mentre stavo fumando una sigaretta. E niente, dai, quindi vi devo abbandonare per adesso, magari se finisco prima provo a rientrare, vediamo un po'. D'accordo? Dai Franco, salutoni, ben risentito dopo un po' di tempo e niente. Dai Lu, anche a te, saluti e casomai ci sentiamo dopo, ok? Ciao ragazzi. Ciao Gianni, forse domani mattina dovrei essere di nuovo da quelle parti che stiamo facendo i rilievi negli scambi elettrici che c'è dietro a casa tua praticamente. Ma adesso dopo le 10:30, se ti avvicini magari ci beviamo qualcosa, dai. Se no, salutoni ancora e ben risentito dopo un po'. Fa sempre piacere. Avanti Luca. Ciao già. A dopo. E se no alla prossima. Ok ragazzi, dai. Rinnovo i saluti e ci sentiamo. Ciao. Ciao. Io stavo mettendo un po' di ordine, ho cambiato la tovaglietta qua che c'è sotto gli apparati, che c'era un po' di polvere. Intanto bisogna metterci nella lavatrice, anche se è un casino, devo smontarne tutto, non lo vedo. Piano piano, pezzo per pezzo, adesso ho ripiazzato, ho tarato di nuovo le stazionarie, sembra che vada tutto bene. Mi ascolti bene sempre? Sì. Adesso sono liscio come... Però quando ha fatto le tarature mi ha aumentato di nuovo i watt, cavolo. E adesso mi sta dando 10 watt, invece l'aveva passato a 5 per pilotare quella roba lì. Vedrai che adesso quando vado ad attaccare quella roba lì mi manda leggermente in saturazione. Ma poco fa l'ha agganciato in FM? No, non ho provato ancora quello. Sempre sganciato. Si deve provarlo con qualcuno di... Non so, se entra... Come si chiama? Claudio magari, che c'è un apparecchio centrato sicuramente, vedere come mi sente, se c'è da tarare ancora. Vedi, adesso è scesa già di un chilo, da 7,5 è scesa a 7,4, pur essendo il potenziometro a livello centrale. Vabbè, noi siamo vicini, arrivi bene, vediamo un po', aspetta, voglio fare una prova, aspetta. Allora. Aspetta che aggancio. Aspetta. No, non disturbo il televisore. No, ti avevo attenuato a 9, mi sembra sia fatto in tempo, abbassato il segnale. Adesso si è risalito a 9, quasi a 9:30 mi sa. Attenuato un po', Braccate! Stavo... Poi ce l'ho provato, staccato, agganciato, quello che si disturbava, no, niente, perlomeno, non la mia TV, niente, zero. Vabbè, Antonio, avanti. Papà, buonasera a tutti! Sì, Antonio, beh, è ritornato proprio a bomba, Hai sistemato l'antenna, cosa hai fatto? Sempre lì l'antenna, sempre sul tetto. No, ultimamente una volta che ho sentito più basso, forse eri da un'altra parte, non mi ricordo, eri in posizione precaria, adesso ti sei stabilizzato? Già, una di... Non è che c'è tutti i giorni, tu. Però arrivi bene adesso, sei fortissimo. Tipo, 9:30. No, li passi pure i 9:30. Mica che potenza. Dove sei? Che zona sei? Sempre... adesso non mi ricordo che zona fossi prima. Zona fatta di vecchio, la zona lì? No, Latte Dolce, Lima Delta. Ah, allora sei di fronte qua. E vedi, quella parte lì io sono coperto. Però arrivi bene lo stesso. Cioè, diciamo, c'è il palazzo davanti all'antenna. Però arrivi a bombola, come si dice. Scappa. C'è l'antenna sul tetto, c'è la GPS. Ve la affido, quella tre radiale, a voglia che pompa. Oh, vabbè, quell'antenna non è carissima, eppure rende quell'antenna. Sì, va bene, complimenti, dai. Io ti arrivo bene lo stesso, sicuramente. Sì, ci arrivo benissimo. Luca a fondo scala lo stesso. Luca ti vede, secondo me, l'antenna. Boh. Che cosa, Apra? No, dico, la tua antenna sicuramente è in contatto con la sua, tu la veloce lo vedi da lì su, no, sicuramente. Ma davanti c'è un palazzo, no, non ci vediamo, ma riusciamo a passare. Mamma mia, hai fatto una bella dormita giù va. Ma penso che da sul tetto un po' ti vedo io. Sicuramente. Io invece non riesco a dormire, se lavoro la notte, porca miseria, di giorno, vabbè, è questione di abitudine, io lo faccio una volta ogni volta di pappa, capito? Tranne l'anno scorso, sai che seguivo le imprese di notte, adesso ho fatto solo una notte praticamente, ma tutti di bullo. Attenzione! E cosa? Che un mio amico si è dormito in macchina, rientrando da una serata e si è fatto molto molto molto male. Io te dicendo, ho chiuso gli occhi per qualche frazione di secondo e qualche santo mi ha svegliato, ma tu. Meno male, ho quasi sentito le vibrazioni che della ruota era già fuori. Un consiglio, non partire mai se ti senti che è cosa. Ti scegli un posto, a base del sicuro ti fa la pennichella e dopo riparte. Non partire mai perché un mio amico si è affondato la macchina, dal colpo che ha preso ha avuto delle fratture, cioè un casino. Io ho finito alle 5, quindi non vedevo l'ora di rientrare a casa a mettermi a calduccio perché abbiamo preso anche freddo, perché di notte c'è freddo, io lo sai, no? Quindi ho già resisto invece, alla fine ero già alla Conforama quasi, proprio alla fine della quattro corsie. E da dove rende? Stavo rientrando da tra Alghero e, non so se conosci la zona, Mamuntanas, tra Alghero e Olmedo, là. Non ti mettere più in viaggio se non ce la fai, no? No, già resisto niente, conviene mentre accendi la macchina, la fai scaldare, ti metti un po' di caldo e ti fai una mezz'ora, cioè abbassi di sicuro e ti metti in un posto sicuro e ti farà meglio un'oretta, perché ritorno a casa alle 7 per dire, però ritorno salvo con la macchina mia e tutto, piuttosto che ammazzarmi. Hai ragione, però ripeto, no, mi sembra che nella mia vita è la seconda volta che mi succede una cosa del genere. Un'altra volta sempre andando a lavorare però sulla strada di Sassari Arzachena, Sassari Olbia, dai. La stavano appena rifacendo ed era senza segnaletica, anche lì mi ha fottito. Lì ero con due colleghi, lì ero anche con la mia macchina privata, invece l'altro giorno ero con la macchina dell'azienda. E vabbè, dai, per adesso ci è andata bene, invece tu bisogna capire quando è il momento di fermarsi un po' e poi ripartire. Meglio farti un'oretta, ritornare a casa più tardi ma con le tue gambe, sano e salvo con la macchina a posto, che farti del male. Guarda che in questo periodo io, anche quando lavoravo la notte, io se non ce la facevo non mi muovevo da capannone. Se io mi accorgevo che non ve la fazia, almeno una mezz'ora me la facevo, mi scaldavo un po' la macchina, ma se c'era freddo e dormivo, cioè mi facevo una pennichella, se non ve la fazia non partivo io, no, ma manco per sogno. Ma ce la faccio andare a ammazzarmi per non tornare più a casa, ma manco no. E a volte siamo convinti di farcela, capito, invece. E invece il pericolo è dietro l'angolo. Avanti Luca. Infatti, così. Si è stanchi, secondo me come fermarsi anche una mezz'oretta. Cioè ti riprendi, c'è un caffè. Non so se a te fa quell'effetto che ti tiene sveglio. Prima mi organizzavo, facevo le notti di fila però, mi prendevo un paio di rete, pure c'era quella macchina. E quindi con quelle, guarda, rientravi a casa che un grillo, anzi avevi difficoltà ad addormentarti pure. Io invece sono più presto, sì, ritorno una mezz'ora più tardi, però mi rifaccio una riposata, mi riposo un po', non me ne frega niente, cazzo, avremo da ammazzarmi. Accendo il motore, me la scaldo un po', entro un po' di caldo, cosa, mi metto magari il giubbotto sopra, tipo copertina, e mi dormo una mezz'oretta. Io mi guardo anche un film nel frattempo e mi scala un po' il sonno in un posto sicuro e tranquillo a Caponnone, non vi batia, perché sapevo che mi dormivo e se mi dormo casi faccio la macchina, mi ammazzo pure io e faccio del male a qualcuno. No, mai un'oretta, una mezz'oretta, un'oretta poi partivo, ero tranquillo, un mio amare rivenga. Capito che i sedili quelli neanche abbassano perché sono quelle macchine aziendali, capito? Che c'è il pannello dietro il sedile. A meno che non ti colleghi di lungo, di traverso, dai. Davanti c'ha tre posti davanti. Si potrebbe fare anche così. Però, ripeto, ho fatto una cavolata che è andata bene fortunatamente, siamo ancora qua. E se non va bene cosa succede? O mi torno a casa tutto truncato, o non mi dormi più. Lascia stare, meglio riposarsi un attimino e poi si riparte. Sì, e poi da solo, infatti detto, la prossima volta è meglio in due, di notte è meglio con un collega, che insomma, sempre meglio, dai. Tu si dice, quattro occhi è meglio di due. Certo, sì. Entro, la stai combinando, Antu? A casa sono, col bimbo. Ragazzi, come si chiama? Gabriele? Poi, mi ricordo male. Prega. Quanto ha adesso? Deve fare 3 anni questo mese. Vieni Gabriele, alzati. Allora, a 3 anni sono dei grilli, ma sorte. Poi sono da una parte all'altra, iperattivi. Mamma mia. Ti ricordo quando era piccolo, dovevo tenervi in braccio. Adesso oggi mi ha fatto arrabbiare perché ha cucito una matra. Non ho capito. Mi ha fatto arrabbiare che ha cucito una matra. Oggi i bambini sono più vispi rispetto a prima. Infatti noi eravamo più bravi, ora anche i genitori erano più severi. Oggi gli diamo un po' più di libertà, là. Non so. E così non voglio, non lo deve fare Gabriele. E lavoro, cosa stai combinando? Sto lavorando a quel fatto dei corvi di tipi. Sto facendo palchi, transenne, cose di teatro, roba così. Sto lavoricchiando. C'è il telefono. Ehi amica, Luca ha detto che ha il telefono. Sì, mi sembra che me l'avevi già detto che... dai, già un bel lavoro, vabbè, beh. D'estate c'è più lavoro, no? Sì. C'è più lavoro. Adesso ti toccherà per le feste, Natale, Capodanno. Noi no, facciamo, ma con l'altra ditta mi tocca lavorare a Capodanno. Mi tocca lavorare, sì. C'è Sassari, Alghero, tutti i paesi sono in festa. Cazzo è sardo. Dappertutto c'è festa, quindi palchi a gogo, cantanti a gogo. Sì, ma noi palchi non ne facciamo per Capodanno, non c'è niente. Ho fatto ditte. Praticamente dovremmo fare però quello scorro caos, piazza dei segni. Quest'anno la fanno lì la festa? Sì. C'è Max Pezzali quest'anno. Mi avvedo. Oh vabbè, già faceva freddo anche in Piazza d'Italia, ma penso che lì è zona più aperta, non lo so. E come fai? Ma non sa la gente che c'è. Come si dice, c'è un bel grande al posto. Guardato, c'è più spazio, sì, ma chiuderanno al traffico sicuramente. Di quanta corrente avete bisogno? Come tensione? Quanti kilowatt? No, lo so. Penso che un concetto così grosso ce ne voglio più di 100 kilowatt. E lì va dal comune oppure vi attrezzate con gru? gruppi elettrogeno, cosa avete? Ci porta un gruppo elettrogeno a noleggio. Per non rischiare, dai, perché a volte la corrente del comune potrebbe anche saltare. Ne abbiamo visto meno. Non dico brutte figure perché loro colpa non ne hanno, ma a volte saltava la corrente del comune. Invece col tuo gruppo sei a posto, sei tranquillo. No, adesso da qualche anno quando si fanno grandi live che ci deve essere un gruppo, cioè ci deve essere una cosa seria, capito? Un gruppo elettrogeno grosso. Se no come fai? Sì, ormai. Anzi, ne avranno più di uno, avranno anche quello di scorta. Ormai sono praticamente un semirimorchio di un tir che fa da gruppo elettrogeno. Sì. Oggi sono silenziosi, questi sono di bestia. Stiamo migliorando in tutto. Ma da qualche anno che è così. No, perché anche l'apparecchiatura erano un casino, sì. Non era vazia, cioè. Adesso con questi LED un po' di meno consumano, ma per fare un grande live un po' di chilo va bene. Perché pompano. E tutti gli amplificatori, migliaia di watt. Chissà quanto succhiano quelli lì, mamma mia. Già, sono in classe D, dovrebbero essere amplificatori. Come sono? In classe D. Non lo so. Io qui in casa sono classe A, non so se sia il tipo del suono o il consumo, boh. Consuma un po' tutto. Anni fa le luci consumavano molto, ma adesso con il l'Edward consuma tanto. Mi vuole una manco un gatto 5-6 kilowatt va a farla andare. Sarebbe quelle luci che illuminano il palco? No, è lo schermo gigante. Ah, è tipo LED, dai. Sono a LED quelle, ma ti dà molta luce quella roba. Mi lume ci ha dato borsa. Gabriele! Lì ogni LED sarà grande quanto la bottiglia. Quanto lo vuoi grande? Dipende quanto li vuoi mandare, ma ce ne sarà più di uno questi Edward. Perché vanno messi. Quanto lo vuoi fare? Un 10x10 per dire. Sono a pannelli ci piazzano, capito? Sì, ho visto. No, dico, ogni pixel, ogni LED, sarà grande quanto un fondo di bottiglia, dico. Sì, poi ho visto che sono a pannelli, li aggiungono e l'immagine viene ricomposta così, dai. Sì. Dipende quanto ne vuoi mettere, quanto lo vuoi fare, 5x5, 5x6, dipende quanto lo vuoi fare. Sono a pannelli, sono dentro i fake edge e si piazzano. Mia rottura di coglioni. L'ultimo che ho visto era il concerto lì a Golfo Aranci quest'estate. Abbiamo chiamato lì a portare i nipoti, dai, i ragazzi. Chi era? Era forse Radio 105, se non sbaglio, non mi ricordo chi l'avesse. Di chi fosse questo concerto, però c'erano dei cantanti italiani e non, c'era un macello di gente e dietro c'erano pannelli allucinanti, laterali, anche a fianco, lo vedevi da un chilometro di distanza, per quelli che non riuscivano ad avvicinarsi. Sì. Questo quando hanno fatto Ligabue, mamma mia, lì si è lavorato parecchio, la Nannini, un auguro. Diana Nannini, noi abbiamo visto concerti qua in Sardegna, ho visto quello dei Pooh, anche i Pooh erano un bel impianto, chi c'era? Vabbè, Zucchero, Mango, tutti quelli quando erano in vita ancora, là. Una volta ho visto anche quello del concerto alla torre degli Spandau Ballet, non ci credevo nemmeno io, ho detto, ma è possibile in Sardegna, invece sono arrivati anche loro. Io hanno fatto anche Renato Zero in Sardegna, da poco. E da poco, ho visto solo quello lì, poi cosa ho visto tanti anni fa? Prima Pino Daniele, Zucchero, vabbè, Eugenio Finardi, ma prima ci andavano da giovani andavano sempre. Sì, già l'ha fatto da poco. E chi? Finardi. E dove l'ha fatto? A Voghero. No, dove l'ho visto io? Finardi? ricordo se mi rifinarti. Ma poi c'è al Mandingo, a San Giovanni, boh. Potrebbe essere. Magari ha fatto qualcosa con il tentale, mi sembra. Concerti. Quando piace un certo tipo di roba, suona, suona forte, suona. E io mi ho messo un po' di casa nelle orecchie perché era troppo forte, da vicino ti fa anche male, ti spacca i timpani, ti spacca. Quindi o c'hai i tappini, o se no rischi davvero di fare danni seri. Esagerato. No, io già ho perso un po' di frequenze, quindi figurati se fare lì 5-6 ore, 4 ore, quello che sono, con tutti quei decibel, come fai? Io a volte senti anche il dolore ai timpani dentro le orecchie, quindi vuol dire che sta facendo danno. E tu cosa fai di mestiere? Noi abbiamo manutenzione ferroviaria, quindi usiamo macchinari rumorosi, però ultimamente, dai, perché tanti anni fa, tipo 30 anni fa, 35 anni fa, sì, ti davano le cuffie antirumore, ma non ci pensavi nemmeno, invece oggi sei obbligato a usare tutte le protezioni. Praticamente cambiate l'olio ai treni, manutenzione di ogni genere, cos'è? No, noi solo roba ferroviaria, non meccaniche, proprio armamento ferroviario, quindi controlliamo la geometria del binario. Pensavo che era un'officina. No, ci sono anche le officine, però è un altro settore quello è il settore delle officine. A volte collaboriamo, ogni tanto qualche danno succede ai treni, quindi si chiamano loro, intervengono, vengono, se deraglia lo mettono di nuovo su, c'è la squadra di rialzo, arrivano e lo rimettono in linea. A volte capita, una volta ha preso un gregge di pecore lì, Arcone ha deragliato e sono venuti di loro e con dei cuscinetti ad aria e cose varie, con delle binde, si solleva e si rimette in linea. Cappa, ma tu me lo vuoi chiedere? Ma quanto la fanno la manutenzione così? Tu lo sai, il motore, il cambio d'olio e cosa. E adesso ci sono gli Italler che sono dei treni svizzeri e quindi c'è una squadra esterna però che lavora dentro da noi e gli fa la manutenzione. E sì, prima sembravano chissà che cosa, invece qualche problemino lo stanno dando anche loro e quindi ogni tanto sono in officina. Poi ci sono italiani regolati, cioè cambi olio, filtri, quello è, hanno loro le tabelle, quindi almeno un paio di volte all'anno, perché l'aria condizionata lavora, che lavora un sacco, e i filtri sono quelli in cartone, vanno cambiati spesso. Cosa sono? Sono ibridi questi nuovi? Sono diesel elettrici, praticamente ci sono i motori diesel che fanno girare i generatori. Il generatore alimenta i motori elettrici praticamente. Questi sono i vecchi, ma i nuovi sono più silenziosi. Ha una volta più coppia, una volta accelerazione, io mi accorgo in salita salgono tranquillamente, quando funzionano bene. Perché i motori elettrici hanno più potenza dei vecchi diesel là. Ma come ti rinviate? Sono durati un'eternità, non finire. C'era un motore vecchio, c'avevano. Secondo me, come ti dissi, non finire. Ma ci sono ancora, quelli stanno ancora camminando. Quando non funzionano questi, ad esempio tipo a Sorso, mandano quelle vecchie vetturine che hanno motori Fiat ancora lì. E quelli sono, da quanto sono? 12.000, se non ricordo di cilindrata, non vorrei sbagliare. Cata, sono ancora in piedi i motori lì. Io penso che come quelle sono indistruttibili. Però inquinano, ho visto il fumo che fanno. Questi lì, gli stati, se tutto va bene, non vedi un filo di fumo, nulla. Sì, quello sì. Ma come resistenza non ce n'è. È che la passione per un fiacco non si può dire qua. Infatti, poi a volte quando li mettono in funzione, quando fanno dei lavori, li lasciano a volte tutto il giorno acceso per provare condotte, riscaldamento, perdite, cose varie. Lasciano sempre il motore acceso e quindi il fumo arriva. Non so già. Ma comunque quelli lì andavano. Ce n'era una che a me pare che avevamo letto che era degli anni 60. Si sentiva che era proprio il vecchio motore quando viaggiava. Quelli hanno praticamente il motore separato, hanno due motori separati. Quindi a volte perdi un motore, rientri solo con l'altro, capito? Lavorano in coppia se possibile. Infatti tu dentro c'hai gli strumenti, vedi sia gli strumenti di una motrice che dell'altra. Se poi li unisci diventano quattro motori, diventano, perché a volte erano quattro pezzi, due rimorchiate più due motrici. E tu devi vedere da una litorina, devi vedere anche i controlli dei motori, temperature, cose varie, giri del motore, anche dell'altra che c'hai dietro, capito? Madonna, ma quei motori si hanno smaffato chilometri che non ci sono, come si dice, non ci sono proprio termini, non so in manutenzione com'era, ma hanno fatto milioni di chilometri. Adesso ne fanno pochi, perché fanno Alghero e Sassari Alghero, Sassari Sorso. Tu pensi che prima andavano a Palau, quindi facevano Sassari, Nulvi, Tempio, da Tempio fino a Palau, tutti quei paesi, Luras, Nurkis, Sant'Antonio di Gallura, fino a Palau. Figurati i chilometri che facevano ogni giorno, diciamo, in tutto riuscivano a fare quattro corse, in tutto. Chi si chiama una cosa? E quelli che vanno a Cagliari, che sono quelli, che ci sono, sbaffano. Anche quelli. È che diciamo ci sono meno salite, invece per salire a Tempio c'è una galleria forse unica in Europa, è una galleria elicoidale dove il treno entra e esce dalla montagna, entra, esce e sale fino ad arrivare a Tempio. Quella è stata fatta quasi 100 anni fa, mi pare, dai Conti Pasquini. Ogni tanto c'è il cambio a livello, perché prima le locomotive erano a vapore e ogni tanto si dovevano riposare, quindi ogni tanto c'è il cambio a livello dove la locomotiva si riposava, si rilassava e poi via di nuovo a salire, bestiale quell'opera d'arte. Guarda, quando fa la salita è poco, si intende, e quelli a vapore prima, per un periodo io li ho visti, ma c'era il pericolo d'estate specialmente, che uscivano i lapilli dal comigno che andavano a carbone, no? E quindi partivano gli incendi ai lati della... ci volevano i pompieri appresso. Bei tempi. Quanto consumano? Parecchio consumano. Parano 1, 2, 3 chilometri, 1 litro. Ma si rivaltano in burro, consumano parecchio. Le vecchie, le nuove non lo so, sicuramente le nuove molto meno, Con le nuove si risparmiano, come le macchine di oggi. Mi ricordo che... io la prendevo sempre il treno prima, pagandomi anche chi si mette, che a poco si sentiva proprio motore, più non posso, anche quelle nuove già, ho viaggiato anche a Cagliari comunque, cazzarola, ma oiuia. Viaggiava un sacco di gente, adesso è un po' diminuita, vabbè, anche perché il servizio è quello che è. Però forse abbiamo anche Sirio a Sassari, quello elettrico, quello è solo elettrico Sirio, però funziona solo con col pantografo, prende la corrente dall'aereo, tra lì c'è là. Insomma, quanti chilometri che si sbaffano questo di Torino.